Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, chi è arrivato ad ascoltarci. Questa sera parliamo di imprese, parliamo di economia, parliamo di società, parliamo di cambiamento, questo grande cambiamento di cui tanto si parla, un cambiamento che ha investito prepotentemente, soprattutto con la rivoluzione tecnologica, anche la nostra vita quotidiana. Lo facciamo con Elena Morelli. Buonasera Elena Morelli. Buonasera a tutti. Elena Morelli è partner di Carrion. Che cos'è Carrion? Allora diciamolo subito. Carrion è una società di management consulting. È una società di management consulting e ha scritto il libro Esploratori del cambiamento, come accompagnare se stessi e i propri collaboratori nei processi di trasformazione aziendale, edito da Guerini Next nella collana Management. Allora, Esploratori del cambiamento, chi sono, Elena Morelli? Ma il mio intento era di dare questo ruolo ai manager, perché di fatto oggi sempre di più sono chiamati all'interno della loro missione aziendale a esplorare il cambiamento e trovare soluzioni che aiutino se stessi, i collaboratori e l'azienda a competere sul mercato. Ecco, cambiamento, di cosa si intende? Quali sono gli effetti maggiori che si vedono all'interno delle aziende, partendo ovviamente dall'alto, dai manager, di questo cambiamento? Ma allora, naturalmente il cambiamento c'è a livello globale, quindi al manager è richiesto di capire come va il mondo, che direzione sta prendendo e quindi in qualche modo come impatterà sulla sua azienda. E poi c'è un altro elemento che credo sia importante del cambiamento, che è come impatta internamente, sia nella persona stessa del manager che poi nei propri collaboratori. Quindi c'è un tema di cambiamento degli scenari competitivi e poi un tema di cambiamento delle modalità di adattamento e degli approcci nuovi che vengono richiesti proprio per dare risposte efficaci. Ecco, lei nell'introduzione dice appunto che questo libro è diviso in tre parti che in fondo possono essere lette anche separatamente. Si parte dallo scenario esterno per arrivare appunto alla trasformazione che ciascuno può operare dentro di sé, che quindi è qualcosa che riguarda la persona. Molto spesso si pensa che le tecnologie sono qualcosa di esterno da sfruttare, ma cambiano anche la personalità, cambiano anche il nostro atteggiamento, cambiano anche in fondo i nostri valori? Sì, assolutamente, quantomeno ne vengono molto sollecitati e non è detto che poi le persone continuino nel tempo a mantenere il medesimo equilibrio e allineamento, per cui siamo molto poco abituati a interrogarci su noi stessi, sulla nostra evoluzione in relazione all'evoluzione dell'ambiente che abbiamo intorno. Siccome le curve di questo cambiamento sono sempre più accelerate, corte, sincopate, insomma, essere capaci di fare questo confronto mentre si corre non è cosa da poco. Ecco, c'è un'altra, diciamo così, provocazione rispetto a un lettore tradizionale. Lei dice potete partire da un punto del libro in cui la vostra curiosità vi porta, potete saltare di qua e di là senza preoccupazione di perdervi, ma curiosi di scoprire in ogni spazio in cui atterrerete non tanto rivelazioni sensazionali, ma possibilità di creare interessanti reazioni chimiche tra ciò che leggete, ciò che vivete tutti i giorni e ciò che sognate di creare come guide ispiratrici dei vostri collaboratori. Cioè è un libro che in fondo ha solo l'aspetto del libro tradizionale, poi può essere usato in tanti altri modi, proprio letto di qua o di là, leggendo le schede, cercando magari un caso aziendale piuttosto che un'esperienza personale. Sì, questo è l'idea, almeno poi bisogna vedere il risultato, lo diranno i lettori ovviamente, ma è proprio quella di non leggere neanche più il libro in maniera tradizionale da pagina 1 a pagina 150, ma di catturare pezzi, no? Siamo un po' in una società in cui si comunica anche rapidamente e si generano idee attraverso anche spazi intuitivi, per cui quello che mi premeva era di dare un posto in cui ogni volta che tu decidevi di atterrare da qualche parte potevi iniziare un volo. In questo senso è anche un po' anticonformista, perché i soliti libri di management portano i casi aziendali in primo piano, sono costruiti sui casi aziendali, qui ci sono i casi aziendali ma sono messi un po' separatamente con la loro importanza indubbiamente, perché si tratta di casi importanti come Chiesi e Wind, ma sono messi appunto a parte, come se il libro dà istruzioni per l'uso poi dei casi aziendali. Sì, sì, Esatto, anche perché naturalmente i casi aziendali diventano poi straordinariamente vestiti su misura, no? Quindi il libro prova a dare la cassetta degli attrezzi e poi lì ci sono, come dire, degli stimoli per vedere questi attrezzi in quanti modi possono essere utilizzati e come queste due realtà hanno deciso al loro interno, per quello che appunto è la loro sfida, di utilizzarli. Ecco, sì. Quindi è un libro dedicato ai manager, ma può essere dedicato anche a chi vuole capire un po' la realtà e che si sente di dover partecipare meglio a questa realtà, quindi direi soprattutto ai giovani? Sì, ai giovani in preparazione credo che possa essere veramente utile, come dire, farci una pensata prima di essere proprio dentro la piscina a nuotare. Il mio cuore soprattutto è andato a quei manager, tanti che ne incontro nel lavoro che faccio tutti i giorni e che oggettivamente sento molto coinvolti in una sfida molto importante, perché le aziende pongono sulle spalle soprattutto di quello che noi chiamiamo il middle management, quindi quelle figure che stanno ai piani di mezzo, quindi hanno anche nebbia sull'alto, il compito di, come dire, far realizzare il cambiamento in basso rapidamente, efficacemente e spesso dovendo utilizzare leve che non sono proprio delle competenze tecniche, ma a questo punto sfiorano un po' le competenze psicologiche. Ecco, e se parliamo appunto di cambiamento, bisogna tenere conto che il cambiamento comporta un po' tutto lo spettro delle attività, che non si può affrontare, si possono affrontare le cose nuove con gli schemi vecchi. Esatto, ma è stato, come dire, lungo il dibattito anche con Guerini quando abbiamo scelto il titolo, perché il suo titolo più giusto era "Ma devo essere psicologo", perché ogni volta che io incontro e parlo con questi manager di quello che proprio sono le dinamiche del cambiamento umano e che loro inevitabilmente devono gestire, mi guardano con l'occhio smarrito e dico: ma io non volevo fare lo psicologo, volevo fare il manager. C'è bisogno anche di psicologi, c'è bisogno anche di persone che sappiano comprendere, esatto, la complessità anche di ogni singola persona. Grazie Adele Lavorelli di essere stata con noi questa sera. Abbiamo parlato del suo libro Esploratori del cambiamento, come accompagnare se stessi, i propri collaboratori nei processi di trasformazione aziendale. È un libro edito da Guerini Next, 222 pagine per 20 euro. E dopo aver parlato dei manager, delle aziende, della prospettiva appunto di chi le guida, parliamo delle aziende, di quali sono, quante sono, dove sono. Parliamo di un diario di viaggio tra le aziende italiane che hanno attrazione mondiale. La carica delle 101 è il libro di Adriano Morario. Buonasera Morario. Buonasera. Adriano Morario è un giornalista del Sole 24 Ore che ha realizzato per il Sole 24 Ore una serie di inchieste appunto in 101 imprese, adesso ci spiegherà quali sono, che adesso esce in un libro fatto di carta e di cartone nella copertina, edito appunto dal Sole 24 Ore, costa 23 euro e sono 101 imprese. Quali imprese, Adriano Morario? Ma sono 101 imprese un po' da tutta Italia, una gran parte di queste, quasi la metà, sono torinesi, piemontesi, e questo denota anche la mia provenienza territoriale. Partire dal locale per arrivare al globale, si dice. Direi così. Proprio di sì, certo, andiamo un po' in tutta Italia con questa indagine. Un'indagine che dà la possibilità di raccontare un'Italia diversa, un'Italia che va bene, per usare un termine forse un po' generico, ma la realtà è questa. 101 imprese che sono effettivamente la rappresentazione di una Italia che è stata capace di lottare, perché forse adesso si parla di ripresa e probabilmente c'è qualche cosa, si sta veramente muovendo, però l'indagine è partita da metà del 2013, quindi eravamo nel pieno delle difficoltà e queste aziende navigavano già bene e lottavano bene già in quell'epoca. Navigavano, ci sono aziende che costruiscono motoscafi o yacht, ci sono aziende che producono panettoni, aziende farmaceutiche, tutti i tipi. L'Italia ha, sì, questa appunto particolarità di avere una specializzazione abbastanza ampia sul fronte aziendale. Ampia, infatti il libro tratta di medio-grandi aziende, grandissime aziende. Ecco, possiamo dire che è un libro che può dare fiducia nelle prospettive dell'economia italiana, vista appunto dal basso, da chi fa l'economia, che sono le imprese? Io posso dire questo, che diverse aziende che hanno preso tra mano questo libro in questi giorni mi hanno detto: non ci sentiamo soli, non siamo soli a combattere. Ecco, questo è già un elemento importante, non essere soli, e proprio l'esperienza concreta che racconti in questo libro è l'esperienza di aziende che hanno trovato anche una capacità, in fondo un'accoglienza, uno scenario in fondo favorevole. Si potrebbe fare molto di più, perché poi si lamentano sempre, però poi i risultati positivi dimostrano che in fondo c'è uno scenario favorevole anche all'impresa. Si lamentano a ragion veduta per tante ragioni, ma proprio perché il contesto non è positivo, perché non è positivo, il fatto che loro siano stati capaci di trasformare il negativo in positivo o mediamente positivo, questo è già molto consolante. C'è una forza di volontà in fondo in queste imprese, ma c'è anche una capacità di innovazione. La capacità di innovazione è ciò che caratterizza ogni passo avanti. Ed è un'innovazione anche il fatto che un libro che prima è uscito online, è uscito sul web, poi è diventato anche una copia cartacea. È vero. È un libro appunto che si può toccare, prendere in mano, come tradizionalmente fare, leggere, magari addormentandosi, ma è un libro che non fa addormentare, però può essere letto poco per volta, perché sono 101 storie, ognuna con la sua particolarità. Complimenti a Adriano Morario. Grazie, per questo Fabi. Libro, lo ricordo, La carica delle 101, diario di viaggio tra le aziende italiane che vanno a trazione mondiale, edito dal Sole 24 Ore, sono 254 pagine per 23 euro. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, l'appuntamento con Economia in Pagine per sabato prossimo.